Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 12 marzo, il sole in regione è sorto alle 6.27 e tramonterà alle 18.08. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Rita Micoli. Alla scoperta del tartufo mesenterico, una risorsa spontanea ancora poco nota della montagna friulana e che oggi si punta a far diventare un traino di sviluppo economico per il territorio. Parleremo poi di agricoltura bio nel quadro della PAC, la politica agricola comunitaria. In cantina, quindi, per capire il ruolo dei tannini nella macerazione dell'uva pigiata, quindi scopriremo i vivai forestali della regione dove crescono le piante per rimboschimento e attività didattiche. Dopo i lavori di preparazione invernale, l'orto adesso è pronto per le prime semine di primavera. In cucina la proposta è di una ricca ricetta fatta con lo stoccafisso, tra pranzo di magro e succulenta specialità da antico convento. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano chiudono la puntata. Tartufo mesenterico, tuber mesentericum, il nome non è bellissimo, si chiama così, simile all'intestino per la caratteristica delle venature della sua parte più interna ed è il protagonista di questa puntata di Vita nei Campi perché è anche il nucleo di un progetto di cui parleremo. Con noi c'è il presidente dell'associazione Tartufai, Erminio Barna, a cui chiediamo che cosa ha di particolare questo tartufo e dove cresce. Questo è il tartufo più diffuso nella nostra regione, si trova praticamente in tutta la fascia pedemontana e montana fino a circa 800 metri. È uno dei 9 tartufi in commercio, è un tartufo particolare se non saputo usare in cucina, non esalta tutte le sue doti, è conosciuto come il tartufo di Bagnoli Irpino, è la patria di questo tartufo perché è conosciuto come tartufo di Bagnoli. Sul tartufo mesenterico del Friuli Venezia Giulia il GAL Open Leader sta attuando insieme al GAL, Valle Umbra e Sibillini un progetto di cooperazione interterritoriale che si chiama proprio la raccolta del tartufo e anche l'associazione Tartufai del Friuli Venezia Giulia è stata coinvolta per le attività a livello locale. In che modo collaborate? Stiamo collaborando con loro per promuoverlo con eventi di degustazione, laboratorio di cucina e per ultimo con l'evento finale che si terrà a maggio e poi anche con un sito dimostrativo con i cani per far vedere alla gente che si vuole appassionare il mondo del tartufo. Il GAL infatti è un gruppo di azione locale beneficiario di fondi europei tra cui la misura 19 del programma di sviluppo rurale e sta attuando una strategia di sviluppo locale per il territorio. Questo tipo di tartufo si abbina benissimo con i prodotti poveri del territorio, mi riferisco qua all'iverza, patata, zucca, prodotti grassi del maiale, formaggi, tutti i prodotti che noi abbiamo proprio in quel territorio povero, ma così non è perché sono tutti prodotti buoni. Presidente Barna, quanti sono i tartufai regionali? Serve un patentino? Serve un cane? Gli aderenti all'associazione in questi anni sono stati circa 300. Per andare a tartufi è obbligatorio superare un esame, viene rilasciato un patentino e bisogna andare assolutamente con il cane. Che mercato c'è per il tartufo? Esiste un mercato a livello nazionale del tartufo e tutti lo conosciamo, ma qui da noi in regione è tutto da costruire. Questa è la varietà più diffusa e stiamo cercando di valorizzarlo, creare la filiera e costruire un mercato tutto friulano e sul territorio, dalla ricerca alla trasformazione e al consumo. A partire dal tartufo, insomma, quello che si vuole fare è ricostruire un'esperienza globale che va dalla gastronomia all'accoglienza turistica all'ambiente. Sì, praticamente questa è l'idea che tra l'altro stiamo portando avanti anche con il Parco Prealpi Giulie da tempo, dal 2019-20. E abbiamo fatto delle serate a tema appunto con i ristoranti, le malghe, gli agriturismi che sono parte del nostro patrimonio regionale turistico e enogastronomico e valorizzano i prodotti del territorio. Il tartufo può essere una curiosità e una calamita. Nella rubrica dedicata al bio, Cristina Micheloni ci propone un excursus tra gioie e dolori della nuova politica agricola comunitaria. Complicazioni, accese discussioni e per molti versi inspiegabili ritardi, nonché revisioni e parziali cambiamenti di rotta. Questi segnapista di una PAC, partita giustamente e urgentemente ambiziosa, cui gli eventi globali, gli interessi dei soliti noti, la pigra miopia di molti, hanno posto non pochi ostacoli. Il carico poi lo ha messo, lo continua a mettere la burocrazia a tutti i livelli, all'interno della quale si è ulteriormente acuita la smania di controllo. Questa del controllo è una fissa tutta italiana, non europea, embri. Trattare chi presenta domanda di finanziamento e ne ha tutti i requisiti per farlo come un truffatore seriale e non come un cittadino che usa gli strumenti messi a disposizione dalla politica e così facendo collabora con le amministrazioni. Ma lasciamo perdere queste facezie. Anche in Friuli Venezia Giulia, come ci informa efficacemente Marco Malison, si stanno muovendo i primi bandi della nuova PAC come gli ecoschemi. È ora disponibile anche il testo delle misure a superficie del nuovo PSR, ovvero quelle che pertengono al biologico, ma anche all'agricoltura integrata, quella conservativa e sovesci ed altro. Tutto bene? Ma insomma, riguardo agli obiettivi della PAC, non solo il 25% di SAU bio, ma anche la significativa riduzione di fitofarmaci, fertilizzanti di sintesi e farmaci usati in zootecnia, nonché l'evidente urgenza climatica, pare proprio che il differenziale tra le misure non sia adeguato e soprattutto sia definito ancora una volta sul nebuloso concetto di mancato reddito, falsamente più facile da calcolare, e non su quello di servizio agroambientale o agroclimatico ambientale, che va retribuito a chi lo produce a beneficio della collettività. Ma cosa significa? Che se l'agricoltura Andrea fa l'agricoltura biologica, ottiene coperto il terreno con un sovescio, egli contribuisce alla biodiversità del territorio, mantiene la fertilità del suolo, ripulisce l'acqua e non emette in atmosfera né fitofarmaci né gas serra, anzi stocca CO2 nel proprio terreno. Ciò va a beneficio non solo dell'azienda del suddetto agricoltore Andrea, ma di tutta la comunità che vive attorno ai campi di Andrea. Per questo motivo la comunità lo retribuisce attraverso il PSR, che usa i soldi delle tasse di tutti i cittadini, quel che si dice public money for public services. Seguendo tale ragionamento, chi più servizi ecosistemici offre, più dovrebbe ricevere, proprio per permettergli di continuare e motivare anche altri a iniziare a farlo. Guardiamo ora lo specchietto riassuntivo che mette a paragone agricoltura bio con quella integrata e quella conservativa e potremmo concludere che chi sta nel mezzo e non fa una vera scelta ci guadagna di più, cosa che inoltre non porta all'ineludibile e ormai improcrastinabile cambio di paradigma del sistema agroalimentare, che il Farm to Fork, la strategia per la biodiversità, la Mission Soil, tutte le politiche europee più sensate degli ultimi anni hanno come obiettivo, e se non ci interessano le politiche pensiamo alla banale sopravvivenza degli umani su sto pianetino. Ma torniamo al sodo, alcune info che è bene conoscere da subito, anche se le domande per le misure a superficie dovranno essere presentate nel 2024. Per la misura del biologico potrà far domanda solo chi avrà presentato notifica di inizio attività in bio entro il 2023. Sarà obbligatorio che il metodo bio sia applicato a tutta la tipologia colturale aziendale, ovvero tutti i vigneti, tutti i seminativi. Le foraggere saranno eleggibili solo se c'è la zootecnia bio, come da bando attuale. Il bando verrà aperto una sola volta nel quinquennio. Ciò significa che chi deciderà di fare bio dopo il 31 dicembre 2023 dovrà attendere la prossima programmazione. Risorse limitate porteranno alla formazione di graduatorie, quindi non sarà come la tornata precedente, ma ci saranno dei criteri di priorità, appunto. Tutto scritto nella pietra e non modificabile? Speriamo di no. All'amministrazione regionale la decisione. Nella pagina del vino oggi Roberto Zironi, docente dell'Università di Udine, ci accompagna alla scoperta del ruolo dei tannini nella vinificazione. Nella buccia dell'uva sono localizzate delle sostanze polifenoliche chiamate tannini, che sono in grado di dare combinazioni stabili con le proteine e con i polisaccaridi. Reagendo con le glicoproteine della saliva, determinano all'assaggio le sensazioni sensoriali di astringenza. Nella pianta svolgono un ruolo biologico di difesa verso aggressioni esterne da parte degli insetti e dei microrganismi patogeni, ma anche nei confronti delle radiazioni solari e delle temperature elevate. I tannini condensati dell'uva e del vino sono polimeri più o meno complessi di unità monomeriche chiamate catechine, che sono molecole troppo piccole per reagire con le proteine e quindi non danno la sensazione di astringenza, ma sono bensì amare. I polimeri sono astringenti, anche amari, ma ad un certo punto la dimensione del polimero non permette la reazione con le proteine e le sensazioni organolettiche prima di amaro e poi di astringenza si attenuano. In natura l'effetto organolettico principale dei tannini è legato ad una missione più importante, la riproduzione della specie. Ogni pianta attraverso i suoi frutti disperde i semi che ha prodotto e si diffonde. La disseminazione consiste nel trasporto dei semi situati all'interno dei frutti lontano dalla pianta madre che li ha generati. La vite è una liana e se non si arrampica su un'altra pianta ha uno sviluppo strisciante sul terreno. Se i suoi frutti cadono al suolo sotto la sua vegetazione, si sviluppano nuove piantine molto vicine tra di loro e ciascuna piantina vive in competizione con le altre, compresa la pianta madre. L'evoluzione della vite ha selezionato piante che presentano frutti carnosi, saporiti, ricchi di sostanze nutrienti e vivacemente colorati a maturità, e affida il loro viaggio agli animali che se ne nutrono e per questo attirano la loro attenzione in tutti i modi possibili. I loro semi, protetti da un tegumento, passano senza subire danni attraverso l'apparato digerente degli animali e sono poi depositati al suolo insieme agli escrementi, lontano dalla pianta madre. Il seme deve però essere diffuso quando è in grado di germinare e dare una nuova pianta. Ecco quindi il ruolo chiave dei tannini del frutto. La loro presenza nelle cellule dell'epidermide isola e difende il seme dagli stress biotici e abiotici a cui è sottoposto durante la maturazione. In funzione della loro struttura chimica, i frutti assumono un sapore sgradevole e poco appetibile per i predatori, ma anche per gli animali che provengono dalla loro diffusione. Quando all'invernatura il seme comincerà la sua maturazione, il frutto inizierà un'evoluzione sensoriale che lo renderà dapprima poco appetibile per la presenza di tannini reattivi ed aggressivi, per poi evolvere in un alimento gradevole ed appetibile agli animali che dovranno disseminare il seme maturo. Con l'ispettore del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia Dario Di Gallo oggi parliamo di vivai forestali, che cosa sono e a cosa servono. La regione Friuli Venezia Giulia nel suo patrimonio ha anche due vivai forestali per la produzione di piante che vengono concesse gratuitamente agli enti e a pagamento ai privati. Questi sono locati a Maniago, il vivaio Pascolon, e ad Atacento, vivaio Pascul, ambedue dotati di arboreto. Ad Avons di Verzegnis un terzo vivaio è gestito sempre dal vivaio di Tarcento. Le specie prodotte sono circa una sessantina tra conifere e latifoglie. Il loro ciclo vitale è seguito completamente dal personale vivaistico che si è altamente specializzato nel corso degli anni. La produzione è differenziata tra i vivai. A Maniago, piantine a radice nuda e di media grandezza. A Tarcento, piantine in vaso, mentre nel vivaio di Avons vengono prodotte piante a radice nuda di maggiori dimensioni. Il ciclo produttivo degli impianti parte con la raccolta dei semi, oppure per taleggio. Rigorosamente da piantine autoctone della regione, si procede poi con la semina, la produzione in contenitori con il seguente passaggio in vaso o la messa a dimora a terra, per giungere alla distribuzione che viene completata con la certificazione di qualità. I vivai, gestiti direttamente dal Servizio Foreste e Corpo Forestale, si impegnano anche in progetti culturali e didattici volti alla conoscenza delle piante stesse. Le produzioni vengono concesse ad enti e privati per realizzare impianti di arboricoltura da legno, migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati, per opere di sistemazione idraulica forestale, interventi di didattica ed educazione ambientale, rinaturalizzazione delle aree interessate alle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturale, interventi di ingegneria naturalistica, rimboschimento di terreni non boscati, riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree rurali e delle aree di pubblica proprietà, oppure in applicazione dell'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato. Nell'orto con Sara Bosco è tempo di lavoro. Terminando l'inverno, l'attività si fa più intensa e arriva il momento delle prime semine. Nell'orto, nel mese di marzo, tutto riprende vita e con essa l'attività. Grazie infatti alle temperature più miti in quasi tutta la regione si può iniziare la coltivazione di molteplici ortaggi. Le precipitazioni degli ultimi giorni rappresentano un grande aiuto per tutte le colture che sono a dimora, ma anche per il terreno, che deve essere preparato per ospitare diverse plantule. Gli asparagi rappresentano le prime colture che vanno preparate per la raccolta, che potrebbe iniziare già a partire da fine mese. Solo nel caso di impianti riscaldati questa può essere già iniziata. Le piante vanno tagliate, se ancora presenti, e vanno predisposte le prode di terra per le file destinate alla produzione di asparagi bianchi. Mentre per la raccolta di asparagi verdi non bisogna fare altro che aspettare che emergano. Le patate e i piselli possono essere seminati in pieno campo o in vaso a partire da questo mese. Il terreno nel caso delle patate è importante sia preparato in profondità affinché abbiano lo spazio necessario per accrescersi. Vanno messe a circa 20 cm di distanza sulla fila e 75 tra le file. Si può inoltre seminare anche rucola, spinaccio, valerianella, ma anche molte colture tipiche della primavera come zucchine, lattughe e cipolla. In questo mese si continua la raccolta di molte colture invernali, quali cavolfiori, radicchi, verze, cappucci, che piano piano vanno ad esaurirsi. La loro durata varia molto in funzione del clima. Infatti, con temperature più miti, molti ortaggi, come il radicchio, non avranno lo stesso aspetto, in quanto riprende la loro crescita. Protagonista della tavola di marzo è il baccalà. Roberto Zottar ci propone una ricetta che lega la tradizione contadina friulana a quella degli antichi conventi. Domenica prossima è San Giuseppe e quest'anno coincide con l'Etare, come era detto un tempo, la quarta di Quaresima, che vedeva tornare in chiesa la voce dell'organo e il rosa dei paramenti al posto del viola. Secondo un antichissimo costume in uso in Friuli e in altre zone d'Europa, la Chiesa, forse per smorzare i rigori e l'austerità del periodo penitenziale, permetteva una pausa di ristoro dall'astinenza da carni e fritti e i divieti alimentari propri del periodo venivano accantonati facendo un codicillo al carnevale. C'erano i riti del rogo della veccia, si affettava il primo salame dopo il purcitamento di Sant'Andrea a novembre e in Carnia c'era il lancio des cidules, le rotelle di legno infuocate. Oggi però non parlerò dei fritti di San Giuseppe, ma ancora del mangiar di magro, le cui ricette devono indubbiamente aver avuto origine nei conventi, luoghi dove la moderazione e la rinuncia hanno sempre rappresentato un segno tangibile di distacco dalle abitudini dei laici e dove l'innalzamento dello spirito attraverso i digiuni sovrastava il piacere che il cibo dona al corpo. I religiosi però si sono rivelati splendidi artefici di ricette e leccornie spesso segretissime. Tra salmi cantati, fioche, candele e profumi d'incenso, frati e monache hanno elaborato nel tempo accostamenti gastronomici particolari e squisiti peccati di gola. E nei monasteri e nelle abbazie nei secoli si sono quindi codificate numerose ricette. Tra queste pietanze, una per tutti, che richiama la sua origine anche nel nome, è il tradizionale e oggi pressoché dimenticato baccalà alla cappuccina. Molti testi concordano che la ricetta abbia un'origine friulana, pur se presente anche nel Veneto, tanto che la contessa Perusini ne riporta ben 8 versioni. Direi che un piatto con reminiscenze rinascimentali per il gusto agrodolce dell'accostamento di uvetta, cannella e pinoli al baccalà in umido. Per realizzarlo, imbiondite in olio e burro 2 cipolle affettate sottili, infarinate 800 g di stoccafisso bagnato e tagliato a pezzi, aggiungetelo alle cipolle e rosolatelo bene. Unite 6 filetti di acciughe sott'olio, 2 foglie d'alloro, pinoli e uvetta sultanina ammollata, un cucchiaino di zucchero, un pezzo di stecca di cannella, noce moscata, sale e pepe. Coprite con latte o brodo vegetale e cucinate a fuoco medio sino a quando il liquido si sarà addensato. Cospargete la superficie dei pezzi di baccalà con pan grattato e continuate la cottura in forno già caldo a 180 gradi per ottenere una deliziosa crosticina dorata. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi in diminuzione venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 28,60 e 28,90 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 27,50 a 28 euro e l'orzo, peso specifico 62,65, tra 24,50 a 25 euro e la soia tra 54 e 54,50. Nel comparto zootecnico è proseguito l'andamento costante delle ultime quotazioni dei bovini da macello. Le vacche fine carriera a prima qualità sono pagate a peso morto fra 3,20 e 3,70 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,60 e 3,20. Stazionarie le contrattazioni nel settore dei vitelli da ristallo. Rispetto ad un anno fa le vacche fine carriera sono aumentate di 40 centesimi il chilo, mentre i vitelli da ristallo pezzati rossi sono diminuiti di 30 centesimi. Mercato con dinamiche attive invece nel comparto suinicolo, con il latonzolo di 30 kg quotati franco partenza a 4,28 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 2,12. Prezzi in leggero calo nel settore dei foraggi, il fieno mazzengo di pianura viene quotato tra 18 e 21 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità fra 33 e 34 euro, mentre la paglia di cereali pressata viene pagata tra 9,50 e 10,50 euro il quintale. In aumento il prosciutto di San Daniele, stagionato di 16 mesi, che viene pagato con osso fra 13 e 17,50 euro al chilo IVA esclusa, quello di Sossato fra 17 e 21,50 euro. Infine, scambi attivi con lievi cenni di ripresa nel settore degli avicunicoli. Il valore dei polli a terra varia da 1,31 a 1,33 euro al chilo IVA esclusa. Le anatre da 3,66 a 3,70. I tacchini maschi da 1,95 a 1,97. Le faraone da 3,72 a 3,82. I conigli oltre 2,5 kg da 1,89 a 1,95. Le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono 25 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Francesco Sioni sentiamo come sarà il meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Arrivati ormai alla fine dell'inverno meteorologico, che per convenzione comprende interamente i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, andiamo a vederne brevemente il bilancio. La caratteristica principale di questi tre mesi in regione è stata la temperatura decisamente più alta rispetto alla norma climatica. In pianura abbiamo avuto rispettivamente 2 gradi in più del solito dicembre, 3 a gennaio e 1 a febbraio, che mediati danno 2 gradi oltre il valore di riferimento degli ultimi 50 anni. Anche il mare è stato 2 gradi più caldo della norma, raggiungendo addirittura nel mese di gennaio i 12 gradi medi, ovvero 3 gradi sopra i 9 gradi medi attesi. Vari giorni di bora a febbraio hanno temporaneamente raffreddato il mare, che in alcune giornate è sceso anche sotto i 9 gradi a Trieste. Per il resto, segnaliamo ora le temperature giornaliere più basse dell'inverno in varie località. A Fusine si sono raggiunti meno 20 gradi, in pianura i meno 7 gradi e a Trieste 0 gradi. In merito alla precipitazione totale si osserva, come era successo in autunno, valori normali sulla fascia orientale, mentre ad ovest ed in Carnia ha piovuto o nevicato decisamente meno, con un deficit che arriva al 40-50%. Da mesi le correnti occidentali prevalgono e ciò determina una maggiore piovosità sulla fascia orientale verso la Slovenia. Pertanto sul bacino del Tagliamento, sulla pianura friulana e sulla ex provincia di Pordenone permane un deficit idrico importante che si trascina da almeno un anno. Concludiamo il bilancio evidenziando che lo strato di neve ad alta quota risulta discreto sulle Alpi Giulie, mentre è scarso sulle altre zone. Passando ora alle previsioni per la settimana entrante, lunedì avremo una giornata all'insegna della variabilità, con l'avvicinamento di un anticiclone che porterà lo zero termico a ben 3.000 metri. In seguito, martedì, una depressione determinerà piogge diffuse sulla regione in genere abbondanti, ma che potranno anche essere intense su Alpi e Prealpi Giulie. Avremo anche nevicate moderate, con quota neve che si abbasserà progressivamente, dai 1.800 metri circa del mattino ai 1.000 metri in serata. Mercoledì, sulla zona montana, soffieranno venti da nord moderati in quota e affluiranno sulla regione correnti più secche nei bassi strati, che porteranno a decise schiarite sulla regione. Il miglioramento dello stato del cielo permarrà anche nella giornata di giovedì, quando avremo probabilmente anche un abbassamento delle temperature minime. Da venerdì e poi nel weekend, l'avvicinamento di una nuova depressione favorirà correnti umide nei bassi strati, aumentando la nuvolosità senza tuttavia portare nuove precipitazioni. L'evoluzione tuttavia sembra ancora incerta per ora. Raccomandiamo quindi di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. March las chalces pal bearch, avril las chalces pal curtil, ovvero a marzo le calze nel bearch, il terreno recintato attiguo alla casa, ad aprile le calze nel cortile, si va sempre scalzi. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.